notizie dicerie, molte sono fesserie, ma c'è ancora un bel cavillo, William Shatner. Non c'è ancora un coccodrillo, questi conduttori non saranno rose e fiori, e li state ad ascoltare, ma mandateli a zappare! Beautiful Hop House, benvenuti qui a un nuovo appuntamento con Pop Corner, la trasmissione più pop che corner, o più corner che pop, non lo so, ma con me c'è Marco Gualdi. Buonasera, buonasera. Entusiasmo, non, Gualdi, entusiasmo. No, possiamo essere entusiasti. Questa è hai ragione. Anzi, penso, dovresti rifarla un po' più contrita. Contrita. Mettici più trita. Non ce l'ho il trito. Che, vabbè. Walter Sbano, quanto sei trito anche tu? Raga, è dovuto morire William Shatner per farci fa popcorn. Salutiamo Alex Racuglia. Allora poi lo dice la sigla che ancora non è morto. Non è ancora morto. No. Perché quando morirà William Shatner cambierà la sigla. Esatto. Ok, ma allora che cazzo stanno a fare? Infatti, perché è morto qualcun altro. È morto un po' la nostra infanzia. Tanta gente muore tutti i giorni. Non è che per questo facciamo popcorn. Cortischio senza Gualdi, cosa ti ricorda tutto questo? Ricorda... Quante pippe? No, quelli sono film con la Fene, con Salvatore Vitali, con tutto il rispetto. Per un'altra storia. Si può. Sì, perché si parla delle nostre infanzie. A volte si mischiavano, sì, insomma, a quell'età non me ne potevo fare pippe, non so neanche che erano. Marco, pensaci bene. Beh, negli anni 81, che cazzo di pippe mi facevo? Non è che quei film poi sono spariti, eh? Io nell'82 c'avevo 12 anni. Ah, voglio nella fase 2 al giorno. 10 anni. Tu stavi cercando di scoprire quale del film. Nell'84, nell'85 sicuro me ne facevo. Lui era nella fase, vedevo quante al giorno ne riesco a fare. Esatto. Ma già avevi deciso la mano dominante, quindi. Vabbè, la mano è naturale. Vabbè, quella la sai già da prima. Vabbè, l'ho detto. Anche se però ho sperimentato, Federica. La mano amica. E Manola? Manola non me la ricordo. La mano che te consola? Sei triste. Vabbè, ma poi ricordatevi sempre che, come diceva mio cugino sposato da 30 anni, il primo amore non si scorda mai. Questo è giusto per entrare un po' in tema, ma questo è un episodio. Allora, ragazzi, abbiamo bevuto delle birre. No. Me lo ricorderei. No, abbiamo bevuto delle birre e questo sicuramente inficerà già più di quanto in realtà non dovrebbe essere sulla nostra capacità. Io potrei ascoltare sta musichetta per 2 ore tranquillo. Alla moda, mi rilassa. Alla moda ad organo, scusa. Io potrei metterla. L'ho portata io, lasciala. Ma chi è morto, ragazzi? Chi è morto? È morto Pierino. No, è di lui doveva dire. Pierino è sempre nei nostri cuori, Chi è Pierino? È morto con dignità. Con dignità. Non so se è morto con dignità. Comunque è morto Alvaruccio. Alvaruccio de Fantazzo? No. No. Alvaruccio poi. Alvaruccio. È morto Alvaro Vitali. Io c'avevo qualcosa. Il portiere del palazzo mio si chiama Alvaro. Comunque, se volete, vi racconto un po'. Con la R poi, Alvaro. Come è successo? Non è esattamente bellissimissimo. Ah, cioè, è morto male? Bene, non è morto, nel senso, lui è stato ricoverato per 2 settimane per una polmonite, non mi ricordo in quale ospedale di Roma. Non ne poteva più, ha insistito per farsi dimettere, lo hanno riportato a casa, ha fatto 3 gradini delle scale, si è risentito male, hanno richiamato l'ambulanza e non c'è stato niente da fare. Che sono i famosi 3 gradini della morte. È brutto. È brutto. Però sei morto come sei vissuto. Esatto. Cazzo di cane. Sarendo gradino. No, vabbè, raga, ho capito. No, 75 anni. Cioè, era poi anche un po' abbandonato dagli affetti, perché era la moglie che lo seguiva fin dai tempi di Magazzini Mass. Aveva si vede che quella che doveva ottenere, l'ha ottenuta. Ma più niente. Ma ricordate che era stupida come una capra, ma c'era tuzzina incredibile. Come io, tutte le protagoniste del film di quegli anni. È ancora viva comunque. No, dovrei... lei sì, infatti lei perché è partita al passato? Perché c'aveva le zine, adesso le zine sta... Sai, la forza di gravità ci insegna che è una certa zina un po' si rilassa. Magari se... Tende a scivolare da tutte le parti. Ma ricostruiamo un po' tutto. Chi è Alvaro Vitali, Marco? Alvaro Vitali è un attore... No, aspetta, ho sbagliato. Ricominciamo. Allora, chi è Alvaro Vitali? Alvaro Vitali era uno che faceva i film. Sì. Un caratterista, definirlo caratterista penso sia giusto, anche se tutti lo ricordiamo come il Pierino, come Paolo Roberto Cotechino, centravanti di sfondamento grande. Anche Gian Burrasca, ripulita tra virgolette, erano tutti uguali. Sì, Gian Burrasca era la versione nei primi del Novecento di Pierino, sì. E poi anche il militare di tanti film. Il diario di Gian Burrasca. Sì, però in realtà il Gian Burrasca interpretato da Alvaro Vitali credo sia una libera interpretazione. Sì, più o meno. Una merda. Però vabbè, ma insomma, sempre nella sua dignità di quei film dell'epoca. Lui però in realtà molti non sanno che ha iniziato perché a notarlo è stato Federico Fellini, che lo ha voluto in ruoli ovviamente marginali, ma in più di un film. Anche in Amarcord, e quindi lui in qualche modo è iniziato lì. Poi, vabbè, evidentemente è riuscito ad entrare in un certo tipo di ambito, e ovviamente noi tutti lo ricordiamo per dei ruoli sicuramente più da caratterista. Beh, diciamo che il cinema italiano è pieno di questi fenomeni. Beh, da baraccone. Beh, soprattutto perché in quegli anni Cinecittà si facevano produzioni in 3 settimane, sì, facevi da qualunque. Allora, quelli erano, allora, proprio quella tipologia dei film le facevano in 2 settimane, facevano un film, e quindi nell'arco dell'anno. Aspetta, il termine tecnico è assecchiate. Assecchiate, esatto. Durante l'arco dell'anno penso ne facevano a decine. Però guarda, film, cioè, ti dico che chi si scandalizza quando dice perché questi film ne faceva 10 all'anno Alvaro Vitali, Nino Banfi e qua la, ma che attori sono, no? Faccio presente, non voglio né denigrare l'uno né nobilitare gli altri, ma anche Totò faceva 10-12 film all'anno. No, allora Totò ha fatto una quantità di film che è proporzionata, ma nell'arco della carriera. No, ti assicuro che se vai a vedere negli anni d'oro, Totò faceva un sacco di film. Quelle produzioni erano esattamente assecchiate come quelle come del Franco Franchi. Permettimi. No, anche sì, ma guarda che era quel. Allora, vabbè, Totò è antecedente, fa parte di un'altra generazione cinematografica. Poi lui ha attraversato anche il neorealismo, quindi c'è tutta una serie di determinate cose. Però io mi ricordo molte più cose memorabili di Totò che di Alvaro Vitali. Sì, vabbè, però, quello insomma, indubbiamente sì. Però non è che quelle non produzioni... Abbiamo, allora, non abbiamo parlato di film capolavoro. Allora ragazzi, decontestualizziamo, no? Se prendiamo un film di Totò e togliamo il fatto che ci fosse Totò che li rendeva geniali, cioè, la trama di quei film, ma dov'era? Non lo so, qualcuno povero che cercava le sbarche al lunario. Questa era fine. Sì, però... C'era molta più cura nelle sceneggiature di Alberto Sordi, se lo devo dire, ma non è per fare cameratismo, però... No, beh, i film di Alberto Sordi, anche lì, oppure lui ha attraversato una fase importante del neorealismo, sono dei film anche importanti, certo, no, da un certo punto di vista. Ma il problema è che poi c'è la caratura dell'attore, mentre che lui non era neanche un attore, era comunque un caratterista, e come tante persone che sono buttate all'interno del cinema perché magari aveva fatto ridere qualcuno. Sì, ma non volevo fare un paragone diretto tra ma io per dite Mario Brega, per dite, no? Cioè, nel senso, è un altro di quelli che oggi passa. Ma Mario Brega ha fatti 3 dei film con Carlo Verdone quando già aveva una certa. No, dai, ha fatto un sacco di roba, poi ha fatto pure le vacanze di Natale. No? Vabbè, ma perché? Cioè, però faceva sempre la stessa parte. Ma pure Pierino, però. Cioè, sì, alla fine, sì. Pierino che faceva Gian Burrasca, faceva quello, faceva quell'altro. Non è, comunque non è più. Il pezzo forte di Alvaro Vitale era fine. Che praticamente l'ha disegnato Peter Griffin. Tra l'altro, la caratterizzazione perlomeno in italiano di Peter Griffin è quella. Secondo me avrebbe potuto fargli causa. Purtroppo lui era diventato troppo vecchio e stupido per capirlo, ma gli avrebbe potuto far causa. Continua a insultarlo perché tanto è morto. Ma ricordaci che c'è una compagna che è ancora viva e che non è più la compagna. La vedova. È vedova. È la vedova. Che però sappiamo si è voluta separare, stava chiedendo il divorzio. Ma non è ancora stato ottenuto, per cui. Allora, ma non so, evidentemente non c'era molto da ereditare, altrimenti. No. Potrebbe fare caos. Vi dico una cosa che secondo me. Ma poi io l'ho visto recentemente pure a qualche intervista a lui. Poi non so perché. Sì, perché ultimamente piangeva miseria come fanno tutti quelli che vivono delle gebacchelli. Esatto, non è che. Esatto, che poi alla fine finiscono male. Allora, io devo dire una cosa, quando ero ragazzino. Qualcuno di questi film mi è capitato di andarlo a vedere pure al cinema, perché magari capitava, no, con la famiglia, che erano vita dei minori di qualcosa. Quelli del Varo Vitali relativamente, perché poi non c'era neanche, c'era, credo che ci fosse il vita dei minori 18 anni, se proprio ci stavano le cose brutte. Anche il 14 c'era, addirittura. Perché io mi ricordo che Porky's non sono potuto andarlo a vedere al cinema perché era vita dei minori 14, 14 centimetri. No, volevo dire che poi alla fine, cioè, ne abbiamo visti tutti questi film. E devo dire che io, quando ero ragazzino, ero un po' bacchettone e li schifavo un po' sti film, perché dicevo: guarda che schifo, che vergogna. Invece adesso, allora, però attenzione, li schifo pure adesso, però momento, oggi ragazzi, sono stati rivalutati. Noi dobbiamo intanto creare due filoni un po' paralleli. Il filone del pane? Esatto, uno è il filoncino del pane. Uno è il filone dei film, diciamo così, di Pierino, e l'altro sono le commedie sexy, in cui lui faceva sempre questo personaggio un po' secondario, perché ovviamente era un po' una spalla di Lino Banfi ed altri. Renzo Montagnani anche. Di Renzo Montagnani, eccetera, in cui lui era quasi sempre un militare o comunque uno scenario cameratistico, in cui arrivava l'infermiera o una di scuola, Manola, queste cose. O professoressa da qualche parte, un'infermiera da qualche parte, lui era sempre o il militare di leva o lo studente. Lui, rapato. Alvaro Vitali. Ma lui si faceva, comunque io mi ricordo la maggior parte, che lui era sto cazzo di ragazzino Pierino a scuola, no? Allora ragazzi, i film di Pierino sono... In realtà sono tre, perché poi c'è una sorta di ritorno di Pierino, che non ricordo manco come si chiama, che era Pierino è ritornato dei primi anni 90, che già era un tentativo disperato di recuperare un personaggio fuori tempo. E poi c'è Zamburrasca, se li conti sono solo quattro. Sono molti di più i film in cui appunto la liceale va col colonnello, la maestra va con la professoressa, il militare scatena la guerra nel Terzo Reich. Cioè, nel senso, le commedie quelle un po' sexy anni 70, in cui lui ha recitato in ruoli comunque sia di spalla, ecco, di Montagnani, di Banfi, eccetera, sono quantitativamente molti di più. Sì, con sì. Il Fennec, con Barbara Boucher, con Nadia Cassini, insomma, raga, Nadia Cassini, ragazzi, ne abbiamo parlato recentemente. Quante dediche, sai che è morta pure. Quante dediche, sì, lo so, l'abbiamo detto. Vabbè, tu lo sai che è morta, no? Nadia Cassini, No, devo dire che sì, facevano tantissima di questa roba negli anni 80, siamo stati riempiti, e oggi vengono un po' rivalutati come una sorta di cult. Sì, in realtà sono anche più vecchi, sono la maggior parte degli anni, anche 70. Gli anni 70, noi sì, li abbiamo visti poi nelle TV private, al chilo. No, però no, uscivano pure al cinema, pure quando ero ragazzino. Sì, uscivano al cinema, no, però. Perché per esempio Paolo Roberto Covedeghigno, io pure ero di quelli che ho visto al cinema. Con la maglia del Napoli dell'epoca, del Cirio, sì, perché evidentemente ci fu un accordo con la proprietà dell'epoca, non so, perché era pre-Ferlaino, credo. Sì, lui era una sorta di perculata di Maradona, poi amico. Sì, a tutti gli effetti. Era, cioè, lui era il brasiliano, non era argentino. Sì, però insomma, le voleva rievocare quella cosa lì. E lì la Bonassao de turno invece era Carmen Russo. Ma sì, che poi vabbè, Carmen Russo è stata la sua grande fortuna, erano le zin. Carmen Russo. Vabbè, che fine ha fatto Carmen Russo? Damo che staccò in suo palo turchi. No, sta lì. Beh, però vabbè, non è che Barbara Boucher o le zine e il Fennec avessero una fortuna diversa dalle zine. Guardate su internet, magari sono gli fans apposta, sì. Zine di oggi. Le zine dei Barbara Boucher. Geronto fans. Only fans Geronto. Geronto fans. Vabbè, comunque dai, a me mi hanno sempre fatto schifo sti film, però ogni tanto uno se li riguarda, perché oggi li guardi diversamente, no? Allora, a me fa incazzare la gente che oggi li critica senza ricordare gli occhi con cui li guardava, cioè, all'epoca. No, perché queste cose... Cioè, ragazzi, ma contestualizziamo le cose nel momento storico in cui... Io neanche scendo su sto discorso, perché chiaramente ogni contesto e ogni situazione anche culturale è completamente diversa dall'altra. Stiamo parlando dei 40 anni fa, cioè gli voglio dare una dignità che non hanno, ma non posso nemmeno dire in maniera così tranchante. Ah, che schifo, perché li guardavo, mi facevano ridere, mi facevano. Però, cioè, voglio dire, era il loro scopo, era un'altra epoca. Il problema è che a me non mi facevano ridere, è solo questa cosa. Ma perché, me... tu sei, perché tu eri, ricordi che eri un bambino triste? Sì, era un po' un bambino triste. Era un po' colpa tua. Ragazzi, salutiamo il nostro Pietrone, il nostro luddista digitale che ci raggiunge e ci saluta su un'altra chat di Rattan Time Radio. Ma chi te lo fa fare? Ma chi te lo fa fare? Pietro, dici un po' la tua esperienza con. Con i film. Ma lui è molto più giovane di noi. È un po', però vabbè, ma ragazzi, ho capito, ma smettiamo di pensare che questi film poi non siano passati in televisione fino all'altro ieri, No, fino all'altro ieri no, però sì, è vero che c'è stato un periodo di tempo, un periodo. Allora, se tu dovremmo, vai a scavare, dovremmo tracciare una linea di demarcazione, ma non dovremmo farla noi perché non siamo capaci, in cui la televisione ha acquisito quel briciolo di dignità che ha detto no, questi li passavo più. Non è vero, Marco, è che ma io parlo di quelle nazionali, allora, secondo me lo sa qual è, sì, un problema tecnico, però siccome c'è stata la moltiplica dei canali e adesso, che le VHS non ce l'hanno più sulle televisioni private, ragazzi, sì, ma se vai su Cine 34 per dirne uno, sti film li fanno tutti i giorni. No, dai. Eh sì, perché è uno dei tanti canali secondari di Mediaset. Perché c'hanno ancora altri registratori VHS. Certo, però... che quando il giorno gli si brucia. Ah, guarda, no. Ah, guarda, c'è il film di Pierino. E poi, a un certo punto parte la puntata delle forum perché ci hanno registrato sopra. Ma succede. Questo tu lo sai che è successo con le puntate storiche di Dottor Who BBC. Certo, sì. È una cosa incredibile. E ci hanno registrato Pierino. Porco demonio. Vabbè, posso dare un po' la base, però. Ah, se preferisci, facciamo una citazione a Pierino, no? Perché ci sono allora, a molti non facevano ridere, a me sì. I primi due film di Pierino, Pierino contro tutti e Pierino colpisce ancora. Io non ti dico che li so a memoria, ma quasi ci sono delle battute che per l'epoca. Non sei il solo, non sei il solo. L'ho visto un sacco di volte, mica mi devo vergognare di dirlo. No, ma non è che ti devi vergognare, è che purtroppo, come dicevo. Cioè, allora, io ero troppo bacchettone allora e sono troppo vecchio adesso. Quindi, cioè. Ma adesso infatti abbiamo un contributo. All'inizio di Pierino colpisce ancora c'è il tentativo di far riprendere sta cazzo di licenza elementare che fallisce, infatti poi lui finisce al collegio a Grosseto e durante la prova orale, durante l'esame, nel tentativo di promuoverlo, a un certo punto l'insegnante gli chiede di scrivere alla lavagna un'espressione algebrica. Ma qual è? Qual è il file? Ecco, quello è col fischio senza. No. Col fischio, quello è dell'espressione algebrica. Vai per esclusione. Una è la base. Okay, okay. L'equazione. L'equazione, vabbè, sì, l'equazione è un'equazione algebrica. Vai, va alla lavagna e scrivi un'espressione algebrica a tuo piacere. Sai che piacere? L'audio di quelli buoni. È VHS. Già se lo sa. Eccolo. Vado, Lui sta scrivendo un'equazione alla lavagna in questo momento di buio perché non c'è il supporto video. Questa fa una ceppa di cazzo. No, fa un'equazione, ragazzi, poi ve la riscrivo io in chat uguale. Che ci no, non è mela banana caffè. Ma e che cos'è? È l'espressione algebrica, quella che ha detto lei. E ce la vuoi spiegare? Certo che ve la spiego. Allora, più meno meno, più vengo meno. Per non venir più meno, non me lo meno più. O per lo meno meno di meno. E l'hai pure firmato. E certo. Torna subito al tuo posto. A me non mi fa ridere, ragazzi. Cioè, scusate, però non è colpa mia. Io voglio bene Alvaro Vitali, perché comunque... Gli volevi bene. No, io voglio bene adesso. Ma perché c'è il gioco di parole con i segni aritmetici, sì, col piume? No, me la ricordo la scena, me la ricordo. Più di quello, certo, vabbè. Devo dire che è una comicità spicciola. Allora, io devo dire che questa tra tutte è anche la più elaborata, quindi tutto sommato c'è anche un quid, insomma. C'è stato un tentativo di scrivere una sceneggiatura, un pezzettino. Ci hanno provato, qualcuno ci ha provato, poi gli hanno menato dopo, però. Vabbè, ma anche quando gli chiedono di portare un esempio di una città che avete visitato in vacanza, Pirino con la candela, con la tazzetta, e dice, ma che cos'è? Chicago di notte. Ragazzi, ci sono delle piccole trovate geniali, se ci pensi. No, è Chicago di notte. No, vabbè, Pirino, basta! Lui spegne la candela, non Chicago più. Per rafforzare il senso della battuta, no, secondo me Boh, vabbè, adesso no, ma io non ti sto giudicando, Walter. Mi rendo conto. Dice, negli anni 80 era divertentissimissimo. No, ma io, dice, allora, Pietro, devo dire che questa poi è arrivata anche a noi attuali trentenni, ma nessuno ne conosce l'origine fino ad ora. Adesso lo sai. Visto, ha imparato qualche cosa, Pietro. Sì, però quando c'è Gualdi in diretta sono sempre sti rumori. Diventa un giorno in pretura che, sai, un che non riesco a stare fermo. Ho capito, ma no, il morbo di Parkinson. No, sto anche appoggiato. Ti do il tavolo la prossima volta. Il tavolo. Vabbè, comunque, devo dire, allora a me dispiace. Vabbè, raga, tutti dovevamo morire. No, a me dispiace perché comunque è brutto morire facendo le scale. Al di là dell'aspetto cinematografico e televisivo, poi alla fine comunque, allora, qui arrivo un po' alla cosa alla quale sono più affezionato io, al fatto che comunque lui ha fatto parte di quella generazione che comunque è legata anche alla mia generazione. E poi siete quasi la stessa età del resto. No, però no. Però comunque io l'ho vissuto tutto l'era de Pierino, di Alvaro Vitali, no? E poi Alvaro Vitali, cioè, comunque è collegato a un altro dei grandi fenomeni romani in particolare, quindi magari noi la apprezziamo di più come tipo di cosa, che è quella de Mas. Grandi magazzini Mas, i magazzini del popolo. Molti non sanno, ma a Roma ci stavano sti due negozi che facevano una cifra di pubblicità. Uno era CEM, tu ricordi CEM? Sì, che c'era però più Mas. C'era il cartone animato, che faceva la pubblicità col cartone animato. Ah, CEM, CEM. No, quella è quella. Però CEM, che lui era vestito, che sembrava un po', come te posso dire, Larry quello da Sierra, praticamente. Cioè, era vestito sempre... Leisure Suit Larry. Sì, sembrava un po' Berlusconi, il personaggetto. E poi c'era ovviamente Mas, so, i magazzini del popolo. Sì, era il claim, era questo grande magazzino a Piazza Vittorio che fondamentalmente vendeva quello che oggi compresti dai cinesi. Cioè, comunque. Posso dire che secondo me è anche peggio. Per l'epoca, sì, veramente. C'era da roba che piava a fuoco solo da guardare. Qualità scadente. Diciamo che, come posso dire, se eri un proletario con due soldi andavi alla standa, se non te potevi permettere manco la standa andavi da Mas. Io non mi ricordo sta standa che era così proletaria. Beh, insomma, non era granché la roba da sì, però, cioè, rispetto a Mas era proprio... Mas era il livello più basso in assoluto. Sotto proletariato del proletariato sotto proletariato. Sì, cioè. Era il pidocchio sotto proletario. Era il grande magazzino di Piazza Vittorio. Per fare una citazione cinematografica, erano i pidocchi sotto proletari, praticamente. Esatto, esattamente. E Alvaro Vitali negli ultimi anni, diciamo, di visibilità faceva la pubblicità con quella che poi diventò sua moglie dei grandi magazzini Mas, su sta scala mobile con lei, con sti tacchi a spillo e sti zinnoni de fori, che, diciamo, lei accompagnava lui nel mostrare i prodotti del campionario, diciamo, che erano tendenzialmente abbigliamento. Allora, da Mas, la cosa incredibile, questo negozio stava a Piazza Vittorio. Mas voleva dire magazzini statuto, perché originariamente, se non mi ricordo male, stava a Piazza Statuto e poi si è spostato a Piazza Vittorio. Vabbè, comunque, o qualcosa del genere. C'era questo negozio che stava a Piazza Vittorio, che era enorme, sì, era veramente un paio di piani, se non tre. Due piani sicuri, ma soprattutto era proprio in estensione, era grandissimo. Sì, era con la roba buttata lì, veramente. Un magazzino a tutti gli effetti. Dove tu ci trovavi dai vestiti, jeans, sacci, le magliette, acce. Fino a, che ne so, le federe, le lenzuola, cioè trovavi tutto, pure i mannaggi, c'era di tutto, c'era qualsiasi cosa, però veramente, ragazzi... Quello sporchi le sangue, probabilmente. No, ma non era proprio la qualità che faceva schifo, cioè tu andavi lì, compravi tre caralli di roba, spendevi 10.000 lire. Sì, la premessa è questa, era roba dozzinale per chi non si poteva permettere nulla di più di noi quello. Noi ci andavamo di solito, quando dovevamo girare un cortometraggio, ci serviva della roba che tanto poi buttavi... E ovviamente andavi a prendere la roba perché tanto, cioè, te ne fregava un cazzo e la pagavi poco, tanto non è che si vedeva se era De Mas o no, insomma, magari andavi a comprare una vestaglia di seta, insomma. E devo dire la verità, io solo quello ci ho comprato, non me ce lo sono mai vestito niente da Mas. No, nemmeno io. Ma io penso che se tu entravi con la sigaretta accesa pigliava fuoco tutto. È possibile. Una cosa incredibile. E lui faceva queste pubblicità praticamente De Mas, perché era praticamente diventato il testimonial. Beh, in realtà erano le sue ultime cartucce, ma in realtà poi ci siamo resi conto anche le ultime cartucce di Mas, perché anche se ha resistito qualche altro anno, poi a un certo punto ovviamente è stato surclassato dai cinesi, che non a caso si sono comprati tutta la zona di Piazza Vittorio, perché alla fine a Mas io me te compro. Esatto, io me te compro con due noccioline, perché no, ci ha provato anche a resistere un paio di tempo aveva pure resistito, però veramente, raga, non c'aveva proprio mai. A parte che era proprio anacronistico. Sì, sì. Cioè, un posto del genere. Mannaggia Cristo, ma poi se vedi... sei buono. E niente, gli è partita la ciabatta, pizzi. Cioè, nel senso, se ti devi muovere, te muovi, ma non muovete sul microfono. Cioè, come succede? Guarda, comunque, se non ti calmi, ti tiro fuori una pubblicità che non ti piace, ti faccio incazzare quello di più. No, fuori la pubblicità. Domattina, ragazzi, ore 7, live. Il grande reset. Ascoltate domani il grande reset perché Pizzi vi spiegherà perché Hamas vi mente. Esatto. Mi raccomando. Hamas, i grandi magazzini Hamas. grandi magazzini Hamas. Che si chiamano qua. Sarà un caso, io non credo. No, infatti. Ma infatti, guarda, forse noi comprando la cosa da Hamas, finanziavate per i terroristi. Esatto. Peccato che ha chiuso. È brutta. C'è ancora la NP di Arafat, quindi l'OLP, anzi, l'Organizzazione di Liberazione della Palestina. E Hamas è arrivata molto dopo. L'NP, che noi eravamo tutti tifosi dall'NP. Ah, voglia, che scherzi. Palestina libera, ma da sempre. Antifada. Che ci stanno riuscendo, stanno liberando completamente. Dai, però ragazzi, non si prove tutto nella vita. Esatto. Vabbè, comunque non trasformiamo questa bellissima puntata omaggio a un gigante. Basta. Torniamo dal Varo Italia. Parliamo di cose serie. No, perché mi pare che fosse alto un cazzo in barattolo, quindi. No, lui era bassissimo, sì, ma boh, non... certo, diciamo che la natura non è stata fortunata, cioè ma i soldi gli hanno permesso di compensare, diciamo che sta sua recentissima la fortuna, esatto, gli ha girato in qualche maniera, perché è stato visto da quella persona giusta al momento giusto. Ma lui ha raccontato senza farsi particolari remore del fatto, ma che il microfono si spegne? Non c'è più. C'è qualcosa che fa, ecco, sono tornato forse. Okay, sì, sei tornato. Il ginocchio che fa contatto col gomito. No, dicevo, lui comunque in un'intervista molto recente, fatalità, no? Perché è arrivata la fase in cui non c'era quasi più una lira, quindi ha cominciato a farsi vedere per piagne un po' miseria, come ha fatto Mastelloni, come hanno fatto altri. Come ha fatto anche Richard, insomma, il buon Richard. Come ha fatto anche Richard. Ha raccontato, insomma, del fatto che lui i soldi che ha guadagnato se li è spesi, se li è sperperati, essere goduti. Quindi, da un certo punto di vista, massimo rispetto. Sì, però macchine di lusso, belle donne, tutto. Belle donne. Sì, metà. No, belle donne. Belle donne, evidentemente, cioè, ci hanno avuto il coraggio, lo stomaco. Raga, i soldi vanno messi a quest'altro. D'altra parte, se te fai Berlusconi, te puoi fare comunque. Te puoi fare Alvaro Vitali, sì, sono d'accordo. Occhi e croce. Vabbè, però niente, è chiaro che poi è tutto un po' particolare, un po' amaro, proprio perché poche settimane fa aveva fatto la sua comparsata nel tentativo di riavere un briciolo di dignità. Lui aveva anche ringraziato, se non sbaglio, Carlo Verdone o chi altro che lo ha... Sì, mi sa Carlo Verdone, che di recente lo aveva comunque voluto fare apparire in vita da Carlo, quindi cercava in qualche modo di ridarsi l'ultimo briciolo di visibilità. E che poi, insomma, ecco, può comparire in vita da Carlo, non è proprio il massimo, secondo me. Però no, non manco mai visto. No, non l'ho visto manco mai io, però a me. Non basta guardare la prima puntata. Anzi, una più di me. Esatto, adesso, pure di me. Vabbè, però hanno pagato. Hanno pagato, e quindi. Ah, già, perché dovete sapere che Marco Gualdi non ce lo dice, ma in realtà lavoro per Amazon. Lui è nel programma segreto di visioni anticipate di Amazon. Amazon. Lui è il famoso programma segreto. Che poi io non ho capito come ci sei andato a finire dentro. No, neanche io. Ah, e giustamente il nostro Pietro ci ricorda un dato che non avevamo ancora citato, però effettivamente c'è questo simpatico lato ironico per cui nel periodo, insomma, in cui Jean Todt era il team manager della Ferrari, spesso i due venivano accostati perché prima di invecchiare definitivamente, effettivamente c'era una significativa somiglianza tra Alvaro Vitali e Jean Todt. Loro si ricordavano, ma non erano. No, un pochetto lo ricordavo. Un pochino, però sì. Questo allora, non si può di somiglianza. Tornando comunque al discorso che tutto sommato i soldi riescono a compensare le mancanze della natura, e voglio dire, insomma, conferma questa. Beh, poi diciamo che la bruttezza di Alvaro Vitali l'ha anche aiutato nel cinema. Beh, perché se non dato, fosse stato così macchietta, sarebbe stato meno efficace. Esatto. Però, no? Poi io ricordo, invece Jean Todt, ricordiamo, marito di Michel Yeoh. Vabbè, lì i soldi di più, però. Molti di più. Esatto, molti di più da Alvaro Vitali. Con tutto il lavoro che hanno fatto, anche a buon merito. Aspetta, poi, tutto sommato, in realtà, sì. Non lo so, nel senso ma che sì. Ai tempi d'oro, Alvaro Vitali, come tutti quelli che facevano cinema in quegli anni, di soldi ne ha fatti tanti. Hanno fatto. Allora, questo io ne ho parlato Jean Todt con... ne ha fatti in epoche successive dove, quando era per altri era più difficile. Allora, ne ho parlato con diverse persone che facevano cinema, non solo cinema pecoreccio, ma insomma anche altro tipo di cinema, che all'epoca si lavorava molto a quantità e quindi in realtà le, diciamo, il fatto che facevi i soldi era dato dalla quantità. Il pagamento non era abbondante, è che tu comunque facevi tanta di quella roba e tanto sulle royalty, cioè nel senso che poi alla fine negli anni, nei decenni, tutta sta roba la continuava a fruttare anche se non facevi più niente. Cioè tu dici che tutti già all'epoca avevano delle royalty sulle visioni, sulle trasmissioni già all'epoca? Sì. Allora questi hanno campato su questo, perché comunque ogni volta che venivano trasmesse ste robe ma questo, su questo il cinema italiano è sempre stato molto ferreo pure dal punto di vista legislativo, cioè nel senso che comunque funzionava in questa maniera qua. E te lo dico detto da una persona che faceva un altro tipo di cinema, però diciamo una via di mezzo. Quello così. Che non ti fa fare una lira. O il porno? Amatoriale. Il cosiddetto soft porn degli Gio anni D'Amato, 70-80. Non Gio D'Amato. Anche diciamo qualcosa di più, un po' di Tinto Brass in poi inoltre, no? Cioè nel senso comunque quel soft porn, quel erotico spinto che poi alla fine comunque se ne facevano tanti anche disperato tanti, erotico quindi. Stomp, no, quella è un'altra cosa, quella è un'altra, pure lui è morto, sai, ma dai, da mo, mazza, da mo, Lucio Dalla ci manca tanto, beh sì, più del Alvaro Vitale, beh così con tutta la buona volontà più del Alvaro Vitale. E vabbè, col fischio senza, come col fischio, fuori col fischio senza, via. Fuori! Col fischio senza? Come? Così! E effettivamente il nostro Pietro ci ha messo sulla nostra chat diretta da Anten Radio un'immagine in cui Alvaro Vitali, probabilmente con Dario Ballantini, che imitava Luca Cardano di Montezemolo, e in realtà ci si avvicina un po' a Jean Todt, un po'. Nel senso, quello che volevo dire è che somiglianza è una parola grossa, sì, però vabbè, sono, sì. Cioè te li ricordi, cioè ti veniva da di, vedi, quando vedevi Jean Todt dicevi vedi Alvaro Vitali. Sì, era più quello, perché Jean Todt che in qualche modo con la sua figura, come dire, ensemble lo ricordava. Un po' l'occhio pure il taglio dello, però insomma, diciamo così, la sua altezza sportiva non era equiparabile alla sua altezza somatica. Continuo a dire che secondo me comunque dal punto di vista proprio del valore del budget umano e anche non è umano, insomma, secondo me Jean Todt stava giustamente su un'altra, è uno che insomma si è fatto una certa carriera per arrivare addirittura a sposarsi con un'attrice di Hollywood, insomma non possiamo dire. Vabbè, in realtà ante litteram, o meglio, Jean Todt stava con Michelle Yeoh prima che Michelle Yeoh diventasse, diciamo, un'attrice hollywoodiana. Era ancora probabilmente un'attrice più cinese, hongkongese, hongkongiana, eccetera. Ma lei non è cinese, mi sa che lei è di Taiwan, forse, può essere, dico una stronzata. No, credo che faceva film cinesi, ci potevano andare, ci fosse andare taiwanese in Cina. Ma che cazzo? Non so, magari non tornano più indietro. Ma che cazzo vuol dire? Cercano di conquistare Taiwan, un taiwanese alla volta. Ma sono sempre cinesi, sono comunque cinesi, cioè non è che cambia niente. Non lo so. Allora, in realtà sono andato a controllare perché non ero sicura. Lei è di origine malaysiana, però, lei è malaysiana, ma di origine cinese. Cioè, lei è nata lì, ma i genitori erano cinesi. Perché lei è malaysiana. Malaysiana. Vabbè, comunque. La nostra Giorgio. La nostra Giorgio, alla quale facciamo i complimenti per aver fatto quella grandissima aver accettato, insomma, di fare uno dei film. Vabbè, ma guarda che poi dico le. Stavolta l'ho fatto io apposta perché mi contraeva il cavo. Dico che c'è una cosa brutta che devo. Radio Verità, ragazzi, voi non potete capire cosa sta succedendo. C'era un cavo, però insomma. Sì, grazie. Perché tira del filo. Che adesso, hai fatto che bene, perché cade. Vediamo se cade. Tira. No, ma meglio che cade piuttosto che stava incastrato come stava. Tiralo, quindi. Però, perché se è ricaduto. Bravo, così ha avuto una ricaduta il cavo, ragazzi. Perché qua lo studio centrale di Anten Radio è tutto un cavo. Poi un giorno Pizzi farà quel bellissimo. Nel frattempo, Pizzi sta tirando la lenza perché secondo me. Cioè, spaccherà tutto. Stavamo a pescare. Ma vabbè, prima si era incastrato il mixer, faceva cose strane. Quindi, tutto sommato. Sì, stasera non sappiamo neanche noi come abbiamo fatto. Siamo andati in diretta e non sappiamo il perché. quella poi diciamo. Perché tutto sommato tu del Vario Vitali non frega un cazzo, però era bello ricordarlo. No, è carino, ma secondo me era un po' un pretesto anche per fare Pop Corner, che tanto che non lo facevamo, insomma. Però no, un pretesto. Diciamo che veramente a me. Ci sono pretesti migliori. Allora, devo dire che a me Alvaro Vitali, comunque, per quanto potessi magari non impazzire per lui, comunque ci ha accompagnato. E mi dispiace il fatto che. Cioè, comunque, quando alla fine c'è tutta una generazione di personaggi che piano piano, no? A me sai cosa un po' ha dato da pensare? Tutta la gente che sui social in questi giorni quasi voluto di no, ma perché? Ma sti film io non l'ho mai visti, non li capisco. Ma chi è? Ok, mi ci sono manco fermato. No, secondo me tanta gente per darsi un tono oggi finge di non aver mai visto quei film. Ma non perché siano un valore o perché ci debba essere una medaglia sul petto a dire ho visto quei film. Però ragazzi, anche perché noi abbiamo la medaglia di Creators the Past, quindi quella, tra l'altro, non c'è, scusate, non ve temiamo, ma non c'è batte nessuno. Ma al di là di quello, piaccia o non piaccia, questo tipo di film fanno parte di quello che è la cultura pop italiana, perché poi pop ovviamente assume un connotato a seconda dell'origine geografica. La cultura pop anni 80 americana non è la cultura pop anni 80 italiana, perché se in America facevano Ritorno al Futuro, noi negli anni 80 facevamo Pierino. Questo fa parte del nostro background pop degli anni 80, degli anni 70, cioè c'è poco da fare. È inutile cercare di rinnegare qualcosa che oggi suona inappropriato. Che poi mi pare, scusa, sono d'accordo, però voglio dire, mi sembra proprio inutile proprio dargli spazio a sta stronzata. Perché, certo. Perché cioè, io non mi ci soffermo, cioè, allora non si può contestare e discutere una cosa che fa parte di un'altra generazione culturale. È come se io oggi... mi metto a leggere un libro scritto all'inizio del Novecento e dico che linguaggio, cioè, è come la solita polemica, no, perché quell'opera, che ne so, Il Signore degli Anelli non è inclusiva perché non c'erano i neri. Ho capito, ragazzi, è figlia di un'altra epoca, sì, stateci, ma sì, ma scrivete un'altra cosa, è una stronzata infatti. Però poi Magosla ha postato sta foto, poi mi ricordo che in effetti Alvaro Vitali mi pare a Striscia la Notizia faceva Jean Todt, non so se voi ricordate, sì, probabile, che andava in giro con la tuta da Ferrari, sì, credo, però non sì. Mi ricordo gli sketch perché come vedevo c'è cioè già Strisciano, ma io purtroppo raga faccio parte di quel mondo che tutte le cose fanno ridere, all'altro a me non mi fanno ridere, non so perché, a me mi fanno ridere solo due cose: i rutti e Scurici. A me proprio i rutti e i schiaffoni a bombolo, boh, i schiaffoni a bomba, bombolo mi manca, pure lui faceva sempre tutte le stesse cose, cioè non è che... Ma te. Te manca più Bombolo o Alvaro Vitali? No, Bombolo. Bombolo, Bombolo, sì. A commissare! Quando arrivava cosa, gli dava gli sganasoni. Perché poi. Bombolo, per quanto potesse essere volgare, che poi non era dignitoso. Però, ma sì, ma poi lui non era manco volgare. Era solo stupido, perché alla fine faceva solo quel personaggio lì. Scorreggiava, Venticello. Venticello, sì, però poi alla fine, cioè, nel senso che faceva niente di... Pronto, Ciampino? Pronto, Ciampino? Che bello, che bello che mi hai ricordato. Proprio lui. Ma poi c'è sta scena che è talmente decontestualizzata, perché sti film veramente, come diceva Walter, non è che scrivevano una sceneggiatura. Piavano la cinepresa, ci mettevano la pellicola dentro. Dice, fate qualcosa. Che si inventavamo. E questo che prende le pagine gialle, perché chi non sa cosa siano le pagine gialle, erano comunque il book gigantesco, il grosso libro dove c'erano tutti i numeri telefonici. Guarda che l'ascoltatore più giovane c'ha 35 anni, o sapranno cosa sono le pagine gialle. Ma tu non lo dai per scontato. Comunque era un elenco telefonico. Elenco telefonico, dove c'erano tutti i numeri telefonici della propria città. Quindi, perché noi eravamo ancora, diciamo, circoscritti a ragionare per città. Praticamente lui prende sta cosa così senza motivo, lo mette sul tavolo, comincia a sfogliare. Come aeroporto? No, come aeroporti, Ciampino. Eppure lenta come scena, se tu ci pensi. Cioè, arriva al culmine che dura 3 secondi. Pronto? Che Ciampino? Ciampino? Sì. Alla ficca dal culo. Ficca dal culo. E c'era anche il finale. Te l'ho fatta vedere. Visto che t'ho fatto, portacci tua. E vabbè, sì, era così. Sì. Vabbè, per non dimenticare, adesso non stiamo citando Bombolo, ma allora, visto che è il momento delle caratteristiche, dobbiamo citare Jimmy il Fenomeno. Esce Sersile. Chi è Jimmy il Fenomeno? L'occhio. Come no? Come non no? Un cazzo. Sì, sì. Vabbè, un altro personaggio proprio stupido, che però... alla fine ti faceva simpatia, cioè nel senso, comunque, cioè veramente in Italia un po' pena a volte, sì, a volte ci sono dei caratteristi strani che so, ma vi ricordate quello dei colori che strabuzzava l'occhio? Non è un caratterista quello. No, però voglio dire che io lo incontravo sempre a piazza come si chiama quello del Giordano Bruno? Campo dei Fiori. A Campo dei Fiori, che arrivava e te strabuzzava l'occhio, uscivano da fuori, e ho detto: guarda, un giorno per qualcuno dà un cazzotto sull'occhio, te lo fa esplodere sto cazzo di occhio. Cioè, è una cosa. Comunque, vabbè, noi siamo stati sempre pieni di questi personaggi che attraversavano il mondo del cinema italiano, perché magari, che ne so, stavano simpatici a Verdone o a Fellini, appunto, e via dicendo. E poi se li siamo portati dietro. Se li siamo accollati. Sì, perché il problema romano, italiano in generale, ma più romano, e ovviamente Cinecittà Roma, è che un attimo che ti accolli, basta niente. Ma tipo, se stai simpatico a qualcuno, eccolo. Non ti ricordi, ti ricordi quel film con Lino Banfi, che lui praticamente era tifoso del Milan e finisce tra i tifosi romanisti, più o meno, dai. Non era Lino Banfi, era Massimo Boldi. No, Lino Banfi, scusa, Massimo Boldi, hai ragione, sì, scusa. Purtroppo sì, cioè, si tatua la lupa in petto, vabbè. Esatto, allora praticamente lui tifosi mi sa che si chiamava proprio, lui si fa la trasferta con questi due o tre tipo, che poi pure quelli, cioè non è che gente, capito, tu è gente che pigliavano per strada, sì, no, c'era Maurizio Mattioli, sì, vabbè, sì, che finito con Galera, poi non so se è uscito, cioè, vabbè. Vabbè, comunque capito, tutti i personaggi così, insomma, che se tu ci pensi, e te faceva ridere perché ogni tanto sbucavano fuori sti soggetti che venivano utilizzati come comparsi, facevano magari una battuta che però poi funzionavano, perché Facevano sempre quello. Il problema è proprio come Mario Brega, alla fine, cioè lui era capace a fare soltanto quello, faceva quello, però alla fine Mario Brega, se tu ci pensi, tra i vari caratteristi è quello che faceva delle parti pure più rilevanti. Ma perché, forse perché lui ha fatto intanto un po' di spaghetti western in cui magari però faceva, parlava, però faceva sempre la comparsa. Sì. Beh, lui deve tutto a Sergio Leone. Sì. Lui deve più che a Verdone, deve tutto a Sergio Leone. Poi Sergio Leone era innamorato. Anche perché Verdone lo trovò da Sergio Leone. Sergio Leone, che era tornato a fare la spesa. Esatto. Cioè, qua coppa di bucarini, questo che me lo presti? Cioè, perché te ce lo fai pensare nel film. Sergio Leone, raccontato anche da persone di esperienza diretta, è un pezzo di merda incredibile, però c'era. Pezzo di merda, però simpatico. Cioè, nel senso, era comunque uno che alla fine si faceva. Vole bene nella sì, cricca. Diciamo, faceva... Si creava la cricca, insomma, diciamo così. E praticamente Mario Brega, appunto, c'era questa cosa dei primi piani, di sguardi, no? Da molto da cinema western. Però se tu pensi, comunque, tra tutti quei personaggi, lui e la sorella sono quelli che nei film ci hanno avuto sempre delle parti importanti, pure a livello di recitazione. Facevano sempre solo quello, perché chiaramente non essere attori non potevi evadere dall'essere te stesso. Però, cioè, vedi, se tu pensi, io non so come sta che film era quello. Quello era Bianco, Rosso e Verdone. Cioè, oh, ma lui lì è in terzo. No, del era film. Un sacco bello, mi sa, raga, perché era a Zoccolè, Bianco, Rosso e Verdone quando vanno a votare. Ah, Bianco, Rosso e Verdone quando vanno a votare, è vero, ha ragione, sì. Quello là che viene dalla Germania. Ah, signor, stamano può essere ferro e può essere piuma. Oggi è stata piuma. Quello era Mario Brega in Bianco, Rosso e Verdone. Sì, sì. Beh, e anche lì c'aveva una particella non grandissima. Vabbè. Però sono un sacco bello. Il principe. Signor principe. Ma tu, come via? Che devo? Te la sposi o non te la sposi? Oh, senti come sono sto olive? Quello è Boro d'Arco, però quello è Boro d'Arco. È un'altra, da quell'altro. Senti sto prosciutto. Senti, assaggia. Ma ho mangiato, assaggia. Gli ficca la roba in bocca. Cioè, vedi sta macelleria, no? Ma ancor sangue mi ha fatto uscire, ragazzi. Quelle sono perle. Ho accompagnato mia figlia. Mi ha detto, mi porti a comprare le scarpe. A me mi si è aperto il cuore. Ciao. Vabbè, comunque, vabbè. Insomma, vabbè, però quello è un altro morto. Cioè, nel senso, stiamo parlando di un altro. Perché da Vlado Vitali non ce ne frega un cazzo. Esatto. Aspetta, che nel frattempo la chat è in fermento. Sì, perché, fermorina. Per esempio, vabbè, a parte la citazione di Bombolo che prende gli schiaffi del commissario Girardi, e vabbè, dice Bombolo e Thomas Millian, che duo, dice Mister sì, Zero. Sì, vabbè. Sì. E poi Thomas Millian doppiato da Ferruccio Amendola. Sì, perché altrimenti non avrebbe avuto senso di esistere. E guarda che lui, allora, pure questa cosa è. Lui era un attore americano cubano. Che veniva da. Sì, ma lui lavorava a Hollywood. Lui mai visto i book, roba che faceva. Lui era un bellissimo uomo, esatto, da quando era giovane. Poi è chiaro che quando è venuto in Italia il problema, l'impatto con la lingua è stato magari complicato. Quindi... Vabbè, ma lui è di origine cubana, tutto sommato. Sì, però infatti lui pure oggi ancora parla con l'accento cubano, no? Pure quando lo senti parlare lo senti lui, parlavano. Non è morto. Non lo so, però comunque recentemente me la sì, mi sa che è morto. Però che parlava della carbonara, di quanto lui era innamorato di Roma, che per lui alla fine è diventato romano in qualche maniera, no? Però è chiaro che gli doveva tantissimo, se non il 50% a Ferruccio Amendola, perché però è vero pure Ferruccio Amendola allora era un po' il monopolio. Sì, faceva tutto Ferruccio Amendola, un po' come fa tutto Favino adesso. Sì. E, però Thomas Milian, che ha avuto il suo momento, secondo me, hollywoodiano maggiore, solo che in Italia in pochi l'hanno riconosciuto, in un film che, se non sbaglio, è uscito nel 2000, sì. Traffic, sì. In cui lui era il boss della malavita, il boss del narcotraffico, sì, sì. Ed è fa un cazzo di personaggio, un cazzo di ruolo. E in Italia tutti perché c'è Catherine Zeta-Jones di qua, c'è Dell'Anno, non mi ricordo neanche più il cast. Coso Dell'Anno. Però, insomma... No, comunque bisogna dire che lui si è autopenalizzato scegliendo di vivere a Roma, perché lui... Da quello che ho capito io, anche sentendo interviste, lui era talmente innamorato che lui non se ne... Perché vabbè, sennò... stava bene, diceva a me, però, dice, sai, trovato il mio equilibrio. È una di quelle persone che lavoravano in America, che magari non lavoravano tantissimo, che sono venuti, come tantissimi altri attori, o altri cantanti o personaggi che venivano in Italia, mio... gli facevano... Che per che? Detto, la mia mamma... No, per dire Romina Power, Del Parisi, gente senza arte. Romina Power, che... sì, vabbè, Del Parisi, vabbè, Del Parisi era pure arte un cazzo e mezzo, quindi cioè, senza... Vabbè, una bella ragazza, però comunque a parte lo scoscio, spaccare Del Parisi. Ma poi Del Parisi cicale. E ma lì è Baudo che si è divertito, cioè no. Vabbè, comunque, diciamo, tutti questi personaggi venivano in Italia e trovavano sta seconda giovinezza. Sì. Però poi magari alcuni ritornavano pure in America, cioè nel senso, fammi ritornare a casa a lavorare. Invece lui ha fatto proprio una scelta, e questo è un po' comunque... Anche lui ha vissuto The Royalty, probabilmente, da davanti tanto tempo, e ha fatto negli ultimi anni della sua vita diverse interviste, che insomma era mezzo sparito. Era affascinante, perché lui aveva comunque un physique du role anche da grande, da adulto, da anziano. Sì, aveva proprio un ensemble. Aveva era proprio un figo, cazzo. Peccato che non si è sfruttato come avrebbe potuto, insomma. Sì, perché poi nei film in cui faceva il commissario Girardi o comunque la sua versione, diciamo così, meno legale, nel senso che il personaggio sembra lo stesso, no? Però in realtà... c'è un Nico Girardi che è il commissario di polizia, ma poi c'è un personaggio che è Ermonnezza che è la sua versione bonariamente delinquente, che era uguale, identico, cioè, vestito sempre con lo sempre stesso vestito cappello. Con la tuta da meccanico, il cappello di legno, il cappello, di lana colorato, i guanti nelle mani, uno di un colore, uno di un altro, sì, perché sì, con questo te fermo e con questo te lo via libera andando a fanculo e così sì, via sì, lui era quel personaggio lì, che poi tra l'altro mi pare che negli ultimi tempi aveva fatto pure una serie in Italia, qualcosa di particolare, che poi il problema di quell'epoca, non lo so, quel problema di quell'epoca là, che poi ha vissuto anche un po' Bud Spencer, è che ovviamente tutte queste persone che avevano magari problemi di recitazione perché o non eri un attore o comunque, ecco, nel suo caso magari eri straniero e tutto quanto, alla fine, ma anche attori, anche un po' più attori, venivano spesso e volentieri doppiati, quindi tu li sentivi con quelle voci. E quando la prima volta li sentivi con la voce vera, ti dicevano: no, che cazzo è sta roba? Cioè, di che stiamo a parlare? Cioè, tipo, io la prima volta che ho visto recitare Bud Spencer con la voce sua, mi ha fatto troppo strano. Sì. Cioè, perché comunque eri abituato a sentirlo con quella voce che poi era molto da doppiaggio americano. Lui ha avuto un paio di doppiatori storici, sì, diciamo, nella prima fase, e poi quella anni 80 in cui faceva tutti quei film con Terence Hill, sono stati un po'... diciamo, sono state due probabilmente le voci principali. La fase Piedone e la fase... Esatto, e la fase con bambino, Terence Hill. Diciamo. Esatto. Tra l'altro Terence Hill ne parla sempre tanto, ogni tanto nelle interviste, dice che loro non hanno mai litigato, cioè proprio ci hanno avuto sta amicizia incredibile, ma secondo me Bud Spencer doveva essere un pezzo di pane. Sì, ma tutti lo ricordano. Ah, io l'ho raccontato 12.000 volte, facciamo 12.001. Ma sì, dai. Io mi ricordo... Tanto io me lo... Io quando ero ragazzino, mia zia e mio cugino della mia età vivevano a Piazza Vescovio. Io spesso, magari, siccome appunto con mio cugino avevamo la stessa età e passavamo del tempo insieme, capitava che nel fine settimana mi fermavo a dormire da lui. Il sabato mattina c'era questa cosa che al bar Vescovio tu vedevi arrivare negli anni 90, nei primi anni 90, Bud Spencer nel suo Mercedesone 190, e per quanto il Mercedes 190 per l'epoca come dimensioni fosse un macchinone, faceva un po' fatica a uscire da sto cazzo di abitacolo. Entrava nel bar Vescovio e usciva con una fiammingona, con un vassoione dei cornetti. grosso per lui. E una volta gli abbiamo chiesto: ma che ci fa con tutti sti cornetti Bud Spencer? Perché se ne prendeva mangio. Tipo 20, e risposto, si li mangia lui. Non uno, non due, non cinque, non una busta dei cornetti, una spasa dei cornetti, tutta per lui. Allora lui, uno così non gli è poi che vuole bene, insomma. Lui ricordiamo, è stato un grande sportivo. Poi, sì, prima sì, è stato un nuotatore. Ha salvato un po' la vita. È stato olimpico, non campione olimpico, ma comunque ha partecipato alle Olimpiadi come... Quando girava anche pugilato, nuotatore. Sì, sì, però lui la vera carriera l'ha fatta con col coso, col nuoto. Sì, sì. Quando girava piedone africano, alla Lazio, sbaglio, con Bodo, ve lo ricordate? Bodo, il ragazzino okay. africano. Sì. Allora lo girarono in Sudafrica. Piedone africano in Africa. Che, sì. che ricordiamo essere in quegli anni un paese molto progredito, molto civile. Sì, l'apartheid. Sì. E praticamente raccontavano questa cosa in cui lui andò con tutta la truppa a un ristorante e però si portarono sto ragazzino che poverino insomma, cioè, insomma famo magnaco, c'ha la fame, c'ha la fame insomma, questa qui la portava qui e questi gli ruppero il cazzo, perché questo è nero non poteva entrare. Lui si è un attimo incazzato, ha preso tutti e se ne è fatto vabbè, io qua non mangio, se non fate entrare lui io qua non mangio, si è portato via tutti quanti e se ne sono andati, cioè proprio da... Cioè, è uno proprio che non gradiva certe sì, no, meno ma male. era uno dei core. No, poi lui era napoletano, quindi io insomma... ho visto la mostra che avevano che gli avevano dedicato a Napoli prima del Covid, molto carina, infatti c'era un sacco di memorabilia, un sacco di cimeli. Ma sai una cosa divertente di Bud Spencer, quella che oggi è la flotta aerea, che è la compagnia aerea che Poste Italiane utilizza per trasportare le merci, altro non è che, diciamo così, la reincarnazione della Mistral Air che negli anni 80 aveva creato Bud Spencer. Sì, sì, lui era preso il brevetto. E lui aveva pilota, una compagnia aerea. E quindi questo vuol dire, come pensi ai soldi che ha guadagnato questo? Sì. Sì. Perché comunque per mette su una piccola compagnia aerea, cioè vuol dire comunque... Beh, ha investito, poi comunque bene o male un po' ha funzionato, poi l'ha venduta. Sì, no, ma poi lui piaceva proprio, lui fa... Allora lui ci ha avuto tante passioni, devo dire, su sta cosa. Uno che non si è fatto, diciamo, da un certo punto di vista manca niente. Però vabbè, mo non è la puntata sua. No, anche perché ormai è morto. Però in Germania mi è capitato più volte, insomma, vedere... In Germania lo venerano quasi più che a noi. Sì, che sì, quasi sì. più che noi. Gli sì, dedicano sì. un sacco di cose. Ci sono le Converse All Star con Bud Spencer e Terence Hill, che in Italia non sono uscite, le trovi in Germania. Delle cose... Sì, c'è anche la statua, non so... Che poi, con tutto rispetto, se guardi Bud Spencer e Terence Hill doppiati in tedesco, tu dici, ma che cazzo si guarda fa? Però. No, beh, dai, a me, cioè io non li guardavo con mia nonna, anche non mi fregava un cazzo che le dicevano, cioè aspettavi solo i momenti che volavano le pizze. Vabbè, no. Poi con quei suoni che erano bellissimi. Pietro cioè. Dice pari e dispari nel cuore sempre. Beh, ma sono tantissimi i loro film che, vabbè, però veramente stiamo a parlare di altri. Perché, per esempio, Alvaro Vitali non ha mai fatto un film con Bud Spencer e Terence Hill. Beh, anche perché che cazzo faceva? Però ha fatto con Dick Fenech, l'ha fatto con Barbara Buscego. Ah, secondo me quelli hanno visto un sacco di culi e dei tette, quello sicuramente. Chi? No, Alvaro Vitali. Ah, beh, sì. Lui, Lino Banfi. Capirà Lino Banfi. Renzo Montagnani, forse zitto era il più sozzone di tutti. Sì, sì. Beh, sì, lui era, però no, pure Lino Banfi. Cosa? Come si chiama Adolfo Celi? Adolfo Ito. Adolfo Celi, ce ne stanno tanti, quella cricca di quei, diciamo, di attori di quella... Ma che poi alla fine era sempre loro. Era comunque un attore un po' di un livello leggermente più alto. Sì, però alla fine faceva sempre quei personaggi lì, il commendatore o il dottore. Faceva anche il cattivo di 007. È vero, ha fatto anche il cattivo, che era non Goldfinger, però ha fatto il cattivo in 007. No, vabbè, comunque... Attori di un altro spessore, cioè nel senso, al di là che magari facevano sono finiti per fare solo certe determinate cose... A parlare di attori dell'altro spessore, però è vero che alla fine in quel periodo là, poi alla fine con sti cazzo di Dutch Fenner che si faceva la doccia, secondo me dei culi e dei tette l'hanno toccati al scatafascio. Cioè, oggi questa cosa così, a meno che non è contestualizzata in una maniera così... No, adesso proprio il nudo gratuito, queste scene così, non li... Beh, diciamo che sono diverse scene di scopereccio, però non è gratuito. Esatto, non gratuito come dici te, sì, certo. No, sarebbe assolutamente impossibile, però comunque... Allora. Però sarebbe stato bello, per esempio, un pensiero, un omaggio, un ricordo ad Alvaro Vitali, che ne so, da Dutch Fenech, da Carmen Russo, ma è vero che c'hanno una certa pure loro e magari si sono anche completamente ritirate dalle scene, però un saluto, un omaggio. Dutch Fenech l'ho vista intervistata 4-5 anni fa, non so in che occasione. Però 4-5 anni, guarda che quando comincia ad avere una certa età fa una differenza. È ancora una bella donna però. sì, sì, però, comunque è sempre stata però una donna stupenda. Ha fatto questo pensiero, l'ha fatto Lino Banfi, che hanno tutti insultato perché sì, perché poi aspetta, Lino Banfi secondo me ha un po' approfittato della questione per parlare di sé, come fanno tanti, no? Come fa Renzi, che quando muore uno pubblica la foto sua con quello che è morto, dice sì vabbè è morto Tizio ma parliamo di me. No, Lino Banfi ha fatto un po' la stessa cosa, perché ha raccontato una cosa, che c'erano state delle incomprensioni, non capiva perché, sinceramente voglio dire, allora se stai tirando fuori questa cosa in questo momento non mi stai parlando di Alvaro Vitali ma mi stai parlando di te. Sì, ma poi Lino Banfi, no, ma l'hanno anche insultato, perché cioè, adesso ne parli ma tu in realtà sei uno di quelli proprio che lo ha buttato via, esatto, cioè, esatto. Perché poi Lino Banfi è uno di quelli che faceva parte di quello, di quello specchio culturale cinematografico, allora, lì però poi a un certo punto si è ripulito. Allora io voglio dire una cosa, io tutti, molti hanno il mito di Lino Banfi anche nel, diciamo, nell'ultima fase della sua carriera, perché è diventato il nonno libero del medico in famiglia, Lino Banfi di qua, Lino Banfi di là. Allora io mai visto né conosciuto, però devo dire, questa cosa non me la scordo, il giorno che stavo, che poi diciamo da lì a pochi minuti avrei firmato il rogito di casa, ero in attesa di salire dal notaio, praticamente a Piazza Fiume, a Roma, in un bar a prendere un caffè perché era presto, e a un tavolo accanto con altre persone c'è stava Lino Banfi. Mi ha dato un'impressione di una persona che non è assolutamente nulla, che non ha nulla a che fare con, diciamo, come viene idealizzato da tanta gente. Sì, non mi è sembrato una persona bellissima, con tutti i comici tra virgolette, con non sono assolutamente secondo me anche allarga di più, cioè secondo me come tanti attori di sto tipo, che comunque alla fine, allora io guarda degli attori che, con cui ho avuto a che fa, anche se non è un attore, l'unico che veramente è sempre stato gentile dalla A alla Z, quindi dall'inizio alla fine, che ha mangiato con noi, che è stato con noi, roba già, è stato Marco Liorni, che è stato l'unico con il quale ci ho lavorato veramente bene. Tutti gli altri, anche che ci avevano solo un puzzo di culo di successo, di visibilità, erano tutti quei pezzi di merda. Addirittura a me mi è capitato di dover discutere con un'attrice perché voleva, stava parlando di un cortometraggio che doveva partecipare e che ha partecipato a tantissimi festival, che il suo nome doveva apparire prima dell'attore del nome di Fabio De Caro. Stiamo parlando di Fabio De Caro, che Enzo De Caro. No, Fabio De Caro. Chi è Fabio De Caro? È quello che ha fatto Gomorra, cosa, la Malamore. Fabio De Caro? Fabio De Caro, sì. Lo sento una volta ogni tre mesi. Salutiamo Domenico che ci ha raggiunto, che nel frattempo ha citato anche, vabbè, sempre di quello del gruppo dei film con Banfi, Adolfo Celi, eccetera. Ha citato, vabbè, Gianfranco D'Angelo, Gastone Moschin. E insomma, vabbè, sì, erano un po' gli attori feticcio di quel gruppo di lavoro. E che Gianfranco D'Angelo in batteria. Ha fatto anche Stormtroopen. Sì, dai, però sì, però ha fatto più. Più cabarettista, ha fatto qualcosa, però non è che se glielo offrivano lui accettava. Ma io immagino, insomma, anche di più. Pippo, pippo, pippo, pippo. Vabbè, quello sì, già subito dopo. Intanto, scusa, Pietro dice una cosa: dice per una volta vado controcorrente con me stesso. In effetti, rispetto alle toccate di zin e culi della sexy commedia all'italiana, sono meno vili le scovate a gratis di Netflix. No, dice, certo, almeno sono esplicite. Quello. E però non so, Netflix l'ho mollato qualche anno fa, quindi non so neanche. No, vabbè, bene. Ma in generale, comunque, questa tendenza che c'è stato un periodo in cui le serie appiavano e scopavano, a volte anche un po' a sbavo. Scopare, Game of Thrones ha fatto scuola. Ma sì, ma già su Game of Thrones, Game of Thrones, già c'è stava. Ma io per esempio mi ricordo con Sense8, con Marco, che avevamo cominciato a vedere Sense8, oh che figo, ammazza che... Però la scena di quella mega ammucchiata la super orgia c'ha un senso. Sì, no, ma ecco, cioè, allora, è tutto... Però devo dire... In realtà a volte un po' certe cose ti mettevano un po' a disagio. Vabbè, ma lì perché le Wachowski, che erano appena diventate dai Wachowski alle Wachowski, volevano dare, come dire, la stura al loro momento di libertà emotiva. No? Infatti è stato quella barriera del shock che da lì in poi siamo stati tutti più tranquilli a vedere un po' tutto. Però c'erano cazzi a provvisione su quel cazzo di serie televisiva. Tu ricordi che lui c'era l'indiana che vedeva il tedesco col cazzo di fuori? Vabbè. Che bello, che bello. Vabbè, vabbè, comunque, insomma, qua stiamo un po' divagando. Ma sì, insomma, ma che ce frega. Tanto, abbiamo capito, è morto Alvaro Vidali, ci dispiace. Soprattutto perché, insomma, è stato il testimone al De Mas, che ha rappresentato per tanti giovani romani di una certa epoca. Amici di Runtime che non siete di Roma, cercate su Google Magazzini Mas, qualcosa esatto. Troverete. Troverete. Sicuramente se lo trovate su, se cercate su YouTube, lo trovate sicuro. Ma sì, magari anche proprio gli spot dell'epoca. Perché in realtà hanno fatto delle cose... Ma c'è anche un video del Piotta girato ai Magazzini. Sì, come no? Come no? Ma guarda che i Magazzini Mas hanno resistito fino a... Sì, sì, a meno di 10 anni fa. Meno di 10 anni sì, fa, sì. Quindi c'era ancora roba che... Pure addirittura fatta con Alvaro Vidali, vecchietto, cioè molto sì, sì, hanno provato proprio l'ultima, come dire, l'ultimo conato, l'ultimo respiro sia De Mas che De... L'ultimo conato de vomito. E che De Alvaro Vidali nel tentativo di... Sì, sì, è vero. Vabbè, vabbè, comunque... Ciao Alvaro, insomma, fai col fischio senza laddove sei andato a finire, ossia da nessuna parte, però noi insomma teniamo sempre a usare questa formula che piace, insomma, è finito dove è finito anche Adolfo Hitler, insomma. Esatto. Vabbè, cioè, tutti dobbiamo finire come questa puntata di Pop Corner. Allora approfittiamo per salutare il nostro Pietro, il nostro Domenico, il nostro Mister Zero che ci hanno fatto compagnia e... Che dire, ragazzi, grazie. Se volete che torni presto Pop Corner con un'altra puntata, aspettate che muore qualcuno. Esatto. No, se volete che Pop Corner torni presto con una nuova puntata, fate una donazione a paypal.me/runtimeradio e lì ovviamente noi e le scrivete ovviamente nei 5 euro che lascerete, voglio più puntate di Pop Corner. Voglio che parliate di questo argomento. Aspetta, noi non parleremo di quell'argomento. Facciamo un tariffario, se no non usciamo. 5 esatto. euro, te posso fare una puntata di un'ora, non di più. De un'ora, no, d'un'ora. Okay. 5 euro, un'ora. Okay, però, no. Però devi considerare che 5 euro una persona. Sì, poi magari se tante persone danno 5 euro, lì... Devi... Cioè, tante puntate da un'ora. Esatto. Dai tante persone. Dai, sostenete il progetto Runtime Radio, che adesso è diventato .com perché ci piace confondere i nemici. In realtà è .it, però che poi... ridirige al .com, allora tanto vale andare al .com direttamente. Queste sono le cose di Carlo Sant'Agostino. Io non l'avrei mai fatto questo, però dice "No, non ti preoccupare, faccio il mirroring, is blood. Va bene, va bene. L'importante è che su .it e .com i siti sono uguali. Sì, sono uguali. Ha solo fatto il mirroring al contrario. Vabbè, comunque poi sistemeremo anche questo, ragazzi. Però comunque scrivete runtimeradio.it, andate tranquilli, che trovate tutto. E ovviamente trovate anche la pagina Sostienici. Che non è più anch'io. Che non è più anch'io, esatto. Dove potete trovare, insomma, la possibilità di abbonarvi al Patreon, che ancora ringrazio tutte le persone che misteriosamente ancora sono abbonate. E non sono manco... dimenticato, non lo sanno. Esatto, non lo io l'ho pensato. Perché non o se manco... lo sono dimenticato, hanno fatto la fine del nostro è lì che però continua, evidentemente il conto in banca ancora. Qualcuno continua a prelevare. Prima poi finirà. Qualcuno ce ne verrà a chiedere conto di queste cose. Noi godiamo lunga vita e prosperità, ovviamente. Naturalmente. Però ecco, pure c'è poi l'opportunità, chiaramente, di fare la donazione una tantum su PayPal, perché aiutare Runtime Radio significa anche incentivare nuovi programmi, nuove trasmissioni, che vi ricordo che a settembre, ragazzi, ne partiranno delle belle. Vi dico un'anticipazione, non ve la dico. Non c'è da dire, ok. Però, ragazzi, io ve la butto là. Io me la sento calda. Che da qua a fine anno la puntata delle puntate di Pop Corner la facciamo. No, dai. Secondo me sì. Sì, allora, prima o poi deve succedere, ragazzi. La statistica, più passano i giorni, più la statistica aumenta. È facile, certo. Infatti, le quote SNAI sono basse. Però, ragazzi, possiamo dire che quel giorno in cui succederà, mi dispiacerà. Ah, certo. Perché lì, altro che Alvaro Vidali, quello ha significato tanto nella mia vita di ragazzo, proprio tanto, poi ne parleremo. Però, ragazzo, la tenacia è incredibile. È attaccato alla vita. Forse è più attaccato al barbone. Più attaccato alla vita come William Shatner che alla sua nave come Kirk. Quindi ed è tanto questa cosa. Cioè, devi dire, secondo me lui, e questa è la mia considerazione, è che lui piuttosto che... Lui pensa che se muore non berrà più il barbone e quindi rimane in vita per quello. Insomma. Detto questo, io ringrazio Marco Gualdi. Vi saluto, ci sentiamo alla prossima puntata che sarà tra 5 euro. Tra 5 euro, esatto. Ma buttiamola lì, se offrite più di 5 euro, ecco, se offrite più di 5 euro, anzi più di 10 euro, facciamo così, potete decidere anche il tema. Il tema, bravo, bravo, potete anche decidere il tema, cioè voglio che parlate di qui e noi parliamo di quella cosa. Noi ci informeremo, qualsiasi anche. Cosa sia, diremo la nostra. Esatto. E quando dico qualsiasi cosa sia, so che sto facendo un errore, ma lo dico lo stesso. Tanto dopo quello che è successo a Runtime by Night, non è può succedere qualsiasi cosa. Dopo quello che è successo anche questa sera, hai fatto piangere il nostro signore Gesù. Ti è partito un embolino. Vabbè. Ragazzi, succede. Walter Sbano. Ragazzi, grazie ancora e niente, ci ascoltiamo quando ci ascoltiamo. Ma sì, io ringrazio tutti quelli che sono stati presenti in chat, non so chi sono, non so quanti ti ho sono. Detto c'erano Mr. Zero, c'era Domenico e c'era Pietro. Ma sì, ma che cazzo c'è? Gli altri sono andati a dormire. Buonanotte a tutti. Ciao, buona estate. Ultimora, la serata si colora di notizie e di